Passione Africana di Gigi Donelli e Roberto Antonini. Sorvolo in elicottero Port Harcourt, capitale del petrolio nigeriano, luogo simbolo delle contraddizioni africane. Riserve per 36 miliardi di barili, oltre 2 milioni quelli prodotti ogni giorno. Tutto questo porta nelle casse della Nigeria oltre 30 miliardi di dollari di valuta pregiata. Ma la corruzione è tale che non consente nemmeno di comprare la protesta, che cresce invece e si lascia alle spalle un grande senso di ingiustizia. La corruzione è il cancro della Nigeria, mi spiega padre Haysant, è la chiave di un paese che vive agli estremi. A Lagos e nella capitale Abuja gli alberghi di lusso prosperano nonostante i prezzi proibitivi e intanto la maggioranza della popolazione vive senza elettricità né fogne e va ad ingrossare le enormi periferie urbane. I conflitti etnico-religiosi si sviluppano nella povertà, sono alimentati da sequenze di decisioni che non sembrano mai decisive, ma che generano ingiustizia. Un esempio? Quello preso pochi giorni fa di congelare i fondi alla campagna nazionale contro l'oncocercosi, che cerca di debellare una delle maggiori cause di cecità tra i contadini del nord. C'è la crisi, insomma, e si taglia, naturalmente cominciando dai più poveri. Passione Africana è stata realizzata da Radio 24 in collaborazione con Eni.